Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il bacio alla zia Silvana mi risultava sempre difficilissimo. Una volta titubai troppo a lungo e lei forse se ne accorse e mi disse: come sei restio a baciare la zia? Mi chiamo Giacomo D'Alia, vivo a Roma, nato a Roma e di professione faccio il medico dentista e per diletto scrivo e faccio cose divertenti oltre ad andare in montagna. È venerdì 4 gennaio 2013 e forse il venerdì più triste dell'anno. Possiamo dire che il venerdì prima dell'Epifania è il venerdì più triste dell'anno? Certo, ci sono quelli a cui che schifo il Natale, le feste, bleh, le luci, i regali. Allora quelli saranno felicissimi probabilmente. Però di norma uno da quando è bambino si porta dietro quella roba lì. Quando arriva la Befana, disfi tutto e un pochettino ti dispiace. Dove siete? Dove siete in questo momento? Alle 16 di un venerdì 4 di gennaio. Siete in macchina? Siete al lavoro? Ovunque siate, 349-238-6666. Ovunque siate, oggi torniamo là in quei luoghi e con quelle facce davanti agli occhi che sono collegate a delle feste particolari. Lo facciamo grazie a Giacomo, ovviamente, che ci ha raccontato una storia che risale a diversi anni fa, quando il giorno dell'Epifania o pochi giorni dopo l'Epifania incontrava sempre la zia Silvana. La zia Silvana la incontrava sempre solo quel giorno lì. Andava a trovarli a casa e gli regalava qualcosa, gli dava un piccolo regalo. Ecco perché oggi raccontiamo questa storia qua, la storia di quelle facce, di quei parenti, amici o amici di amici che vi ricordano un giorno particolare. 349-238-6666. Vi faccio un esempio, ad esempio. Ettore mi ha scritto sul profilo Facebook, che voi siete qui, Radio 24, anche il 4 di gennaio. Ogni anno a Natale mia mamma invita a pranzo un signore del paese che è in difficoltà. Io non avevo capito all'inizio, credo in difficoltà economiche. Io lo vedo molto raramente durante l'anno, ma quella sua faccia serena e bonaria, anche se la incrocio a marzo, mi ricorda sempre il cappone, i bolliti misti e i piatti natalizi di mia mamma. 349-238-6666. Questa è una cosa che alcune famiglie fanno, quella di ospitare delle persone il giorno di Natale, di allargare... non so se è una roba cattolica, o... ma no, anche no, anche solo per solidarietà. Bonini di là dice, noi mai, no, neanche noi. Però mi è capitato di... A voi non l'avete mai sentito? Sì, Paolino, Margherita. Casaina non si apre, quel vecchio comunista che è il nonno, non apre la casa a tutti gli ex compatrioti. Tu, vabbè, giusto, perdonami, lui lo fa tutto l'anno, perché aspettare il giorno di Natale? Serena mi scrive invece già al 349-238-6666. Qualsiasi clown io veda mi ricorda la faccia truccata da clown di mio fratello durante il carnevale. Già il clown in sé è terrificante, figuriamoci ricordare il fratello a carnevale. Giovanni, da bambino, il giorno di Pasquetta, venivano sempre a trovarci amici dei miei che vivevano lontani. Mangiavamo la frittata con le cipolle e giocavamo a calcio nel prato di casa. Ma la frittata con le cipolle è una roba tipica di Pasquetta solo dalle nostre parti o dovunque? No. Anche l'anno scorso si è tirata fuori questa storia della frittata. Ragazzi, come ci si ripete? Che roba brutta quando inizia a ripetersi. È la seconda, è la vecchiaia o che ho finito argomenti? No, perché se è la vecchiaia... È comunque un problema. È comunque un problema, ragazzi. È comunque un problema. Sia che abbia finito argomenti, sia che... Mandate storie! Voi siete qui, radio24.it. Insomma, mangiavamo la frittata con le cipolle. Loro figlia si chiamava Maria Paolo. Maria Paola, la figlia degli amici dei miei. E quando la vedo, penso sempre che sia Pasquetta. Anche oggi, che è diventata mia moglie. 349-238-6666. Le facce, i nomi delle persone che vedevate una volta all'anno, in determinati giorni, in determinate feste, che ogni volta che ci ricapitate vi tornano davanti. 349-238-6666. Questo era il caso di Giacomo e della zia Silvana. Odiavo andare a scuola certe mattine che il cielo era di piombo e si sentiva quasi il rumore del freddo. Un po' quello che accade oggi quando non ho voglia di lavorare, ma non posso più cercare scuse. A 10 anni, in quelle mattine lì, cercavo sempre una scusa per restare da solo a casa la mattina. Un giorno decisi di avere la febbre. Poggiai il termometro sul termosifone e fissai il mercurio salire lungo la scala graduata. 41 gradi, troppo. Lo feci scendere fino a 38 e poi recitai la solita manfrina. E anche stavolta abboccarono. Ma a scuola andavo bene, studiavo poco ma rendevo tantissimo, quindi me la vendevo bene la materia. Ed ero un ragazzino piuttosto vivace, creavo molti problemi a mia madre. Sonnecchiai a lungo, poi lessi Topolino e il Corriere dei Piccoli. Poi presi un libro con un gesto rapido e maldestro, urtai con il libro il lume che cadde a terra e si ruppe la lampadina. Pensai se dirlo o meno a mamma quando fosse tornata. Non lo dissi. Scesi dal letto e andai giù in salotto senza farmi sentire. Il salotto buono era tabù. Ci si poteva entrare solo durante i ricevimenti di ospiti importanti e parenti lontani. Lunghi pomeriggi costretto a sedere vicino a mamma, a sorridere ai colleghi di papà o alle vecchie zie che mi portavano un regalo dopo la Befana, quando ormai non avevo più voglia di regali. Mi davano il disgusto, come guardare l'albero di Natale da disfare il 7 di gennaio. Zia Silvana veniva a far visita qualche giorno dopo l'Epifania. Aveva sempre in mano due pacchi. Uno conteneva ineluttabilmente pasticcini da tè. L'altro rappresentava la protesi artificiosa delle feste natalizie, un prolungamento dell'attesa dei doni del Natale ormai passato, che infatti spesso deludeva le mie aspettative. Col senno del poi imparai che quei doni post-Epifania erano gli unici che rimanevano impressi nella mia memoria sino ai giorni nostri. Il pacco con il regalo per me restava appoggiato a lungo sulla poltrona di destra. Io lo fissavo, non mi muovevo. Prendevo il tè, attento a non sgocciolare sul divano buono, e tenevo d'occhio il pacco che mi occhieggiava beffardo. Aspettavo un cenno per poter scartare quel dono ritardatario. Molte volte restava sulla poltrona sino alla fine della visita, quando la vecchia zia Silvana, nel rimettersi il cappotto col collo di volpe, con un urletto affettato diceva: che sbadata, quasi dimenticavo! Questo è un pensierino della Befana per te, piccolino. E mi assestava un grosso pizzico dolorosissimo sulla guancia, a cui seguiva scartamento pacco e moine di mamma. Ma non dovevi, perché ti sei disturbata, sapessi quanti regali hai ricevuto, proprio non dovevi, eccetera, eccetera, eccetera. Infine, la temuta, ma inevitabile, terribile frase: Giacomo, dai un bacio alla zia. Il bacio alla zia era difficilissimo. Una volta titubai troppo a lungo e zia Silvana forse se ne accorse e mi disse: come sei restio a baciare la zia? Io le sorrisi e non la baciai per niente. La sera fu una tragedia. Mamma non mi parlò per due giorni. La zia Silvana era una tipa affettata, piena di moine, di carezze, di complimenti. Una classica zia che si vede una volta l'anno e che era un tormento, ma anche con il tempo un ricordo piacevole, dorato dalla polverina degli anni. Quando quella mattina di finta malattia entrai in salotto improvvisamente, mi sentii terribilmente in colpa per non avere pianto al ritorno dalla villeggiatura quando morì la zia Silvana. Mi avvicinai nella penombra del salotto buono alla lampada sul tavolo sotto lo specchio dorato stile 700. Sapevo che non veniva mai accesa e nessuno se ne sarebbe mai accorto. Svitai la lampadina a tortiglione lentamente e con soddisfazione. Quando venne via fece un cigolio sinistro. Missione compiuta. La lampadina era nella mia mano. Nell'uscire dal salotto mi parve di intravedere un pacco sulla poltrona di destra e una voce fievole che sussurrava: come sei restio a baciare la zia. Chiusi la porta dietro di me senza guardare e feci le scale due a due fino in camera mia. Avvitai la lampadina al lume e mi misi sotto le coperte ancora col fiato corto. La lampadina a tortiglione era un po' buffa, ma funzionava. Mi addormentai per un paio d'ore, mentre fuori cominciava a piovere. Mamma ancora si chiede dove fosse finita la lampadina a tortiglione del salotto buono. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that you. ajar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ci sono persone, parenti per lo più, che mi ricordano dei precisi giorni di festa. O forse è il contrario. Alcune festività le collego immancabilmente alle facce di determinati parenti. Così come Giacomo. Lui si ricorda sua zia Silvana, che arrivava sempre in ritardo con il suo regalo addirittura post-Epifania. Ci sono calendarizzazioni non scritte, ma codificate, che scandiscono per anni la vita delle famiglie. E così, senza pensarlo, senza nemmeno programmarlo, ci si ritrova il giorno di Pasqua sempre con quegli zii, il Natale con i familiari più stretti e Santo Stefano con gli altri, e l'Epifania con altri ancora. Per me, ad esempio, l'Epifania è sempre stata a Trecate, a casa della zia Gaudenzia. Che poi non saprei nemmeno bene dire quale legame di parentela ci univa, oddio, ancora ci unisce alla Gaudenzia. Credo che sia una cugina di mia nonna. Comunque, il giorno dell'Epifania era sempre in quell'appartamento al quinto piano sopra il campo sportivo di Trecate. E ricordo ancora l'ebbrezza di affacciarmi al balcone di un piano così alto per me, che invece vivevo ad un più modesto secondo piano, osservando le persone così piccole e le auto come giocattoli. Poi in realtà non credo che ci siamo andati per più di 5 o 6 anni, ma ancora adesso, se mia mamma mi dicesse che per la prossima Epifania, domenica, andiamo a pranzo a casa della Gaudenzia, io per un attimo penserei che sia la cosa più normale del mondo. Il pomeriggio della vigilia di Natale, invece, a casa nostra, viene sempre a farci visita un nipote di mia nonna, il Luciano. Il Luciano, che attenzione, non è mai solo Luciano, no, è proprio il Luciano. Lui è un personaggio piuttosto fuori dal comune per la mia famiglia. Pluricinquantenne, scapolo, porta lettere di professione, con una grandissima cultura, in particolar modo musicale. Ricordo che da ragazzino mi parlava di concerti a cui aveva assistito, di gruppi che nemmeno ora saprei dire chi sono. Ecco perché, se penso al pomeriggio della vigilia di Natale, io penso a Luciano seduto nella stanza di mia nonna. Ma anche a Ferragosto la solfa non cambiava. Eravamo al mare, di solito, il 15 di agosto. Sempre nello stesso posto, sempre con le stesse persone. E la sera di Ferragosto si andava sempre a casa di questi amici, che affittavano una villa a mezza collina, da dove non si vedeva il mare, ma c'era un profumo fortissimo di pino. Patrizia, Chicco e amici assortiti. Mangiavamo carne alla griglia e anguria ghiacciata. Una volta ne mangiai così tanto che mi venne a noia e saltai a pie pari due estati di anguria. Non lo so cosa farò domenica per il pranzo dell'Epifania, ma ora che Giacomo me l'ha fatto tornare in mente, io penso che vorrei proprio andare a pranzo della Gaudenzia. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. È vero che effettivamente mi sono accorto adesso che domenica è la Befana, è tra due giorni, perché oggi è venerdì 4 gennaio, e mi è venuta in mente la Gaudenza. Tramite la zia Silvana di Giacomo mi è venuta in mente la Gaudenza, che era dove invece io, mia sorella, mia famiglia andavamo sempre a pranzo tutti i giorni dell'Epifania, da Gaudenza, che non era nemmeno una zia, è la cugina di mia nonna, vabbè, ma chi se ne frega. 349-238-6666. Giorgio scrive: ogni volta che vedo il mio ex allenatore di calcio mi vengono in mente quelle domenica mattina buttate via giocando in luridi campi di provincia. Insomma, ci sono delle facce che ti ricordano dei giorni particolari, che magari sono una volta all'anno o magari sono tutte le domeniche. A Giacomo, ogni volta che arrivava l'Epifania e ogni volta pensava alla zia Silvana, e ogni volta che vedeva la zia Silvana pensava all'Epifania, anche solo perché arrivava quei giorni lì. Pronto Giacomo? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Ho mangiato un po' troppo in questi giorni. Vabbè, siamo tutti nella stessa condizione. senti Giacomo, raccontami quanto tempo fa accadevano queste cose. Tu adesso hai... Tanti. Io ho 54 anni. Capitava quando andavo alle elementari, perlomeno 45 anni fa. Senti, e pensi che ancora tra due giorni, il giorno dell'Epifania, ti verrà in mente la zia Silvana? Assolutamente. Forse farà la Befana, ma no, ma purtroppo è mancata da tanto tempo. Insomma, tra l'altro era questa una genere di zia come quella che hai descritto tu, una specie di cugina di mia madre, insomma. Ah, è vero, sono quelle che noi chiamiamo zie, ma in realtà sì, non lo sono. O di quarto, quinto grado, insomma. Comunque arrivavano con questi regali, quindi... Però, per te comunque, diciamo, la parte del regalo era buona, oppure erano regalacci? No, regali molto carini, soprattutto perché era l'ultimo che chiudeva la serie dei regali delle feste. Il problema era la tortura di stare seduto sul divano buono a mangiare i biscottini secchi da te. Il tutto avveniva a Roma, giusto? Sì. Noi stavamo in una casa, un villino con un giardino, con due piani, per cui avevamo tante stanze. Una stanza era chiusa quasi costantemente, solo per le grandi occasioni, c'era questo salotto buono. Certo, senti, c'è questa frase che lei dice... Lei è veramente un personaggio magnifico, Giacomo, te lo devo dire, perché sembra l'incarnazione della zia. Cioè, in tutti noi nella zia Silvana vediamo una parte di una nostra zia. Io appunto subito ho pensato alla zia Gaudenzia, che non si chiama zia, ma che però era quella da cui andavamo sempre al giorno dell'Epifania. C'è questa frase che lei dice: come sei restio a baciare la zia. ti credo. Che mi dava un pizzico sulla guancia ogni volta che la baciavo. Quanto ti sei fatto grande, e ho visto che eri così. Indicava con la mano all'altezza del ginocchio, no? Io poi lo superavo di pochi millimetri il ginocchio, insomma, sono sempre rimasto un nano anche adesso, quindi. Senti, ancora... e tu hai famiglia adesso? Hai moglie, figli? Avevo, sono separato, una figlia di 20 anni. E c'è come un ragazzo di ritorno, come vanno di moda adesso. E c'è qualcosa a cui sottoponi costantemente tua figlia, tipo far vedere, far incontrare gli stessi parenti lo stesso giorno, dello stesso... No, mia figlia è randagia, è proprio libera da questo punto di vista. Vai, ormai i parenti si stanno assottigliando sempre di più, rimangono pochi legami, quindi insomma rimane nel cuore il ricordo dei parenti. Senti, tu sei un dentista, Giacomo. Sì. E anche in questi giorni natalizi hai lavorato? Cosa fa? Sai, i torroni fanno danni. Senti, come va il mestiere del dentista? Perché il dentista adesso, ogni volta che parlo con un dentista, io c'ho questa roba. Il dentista è visto obiettivamente come un mestiere in cui guadagni tanti soldi e, perdonami se lo dico, tu mi smentirai. Si evadono le tasse. Invece, non lo so, o io sono uno di quelli che non è così, come probabilmente sarà, oppure le cose sono cambiate. Poi sai, sta nell'immaginario collettivo, il dentista è quello assatanato di soldi e non è un medico, invece io sono ancora uno di quelli laureati in medicina che poi hanno fatto la specializzazione. Ha fatto chirurgia tanti anni, università, tutte le trafile che potevano essere anche per un otorino o per un oculista, solo che dopo un po' poi i dentisti hanno avuto bisogno solo di una laurea in odontoiatria, e ben venga così, insomma. E senti, e succede come siamo tanti. Come per le automobili, che la gente non le cambia più ma aspetta l'ultimo momento per aggiustarle. Sì, la crisi si sente nel nostro settore, soprattutto perché è quasi tutto un settore privato e le cure sono care, anche se poi uno riesce ad essere equo, non evade il fisco, riesce a non essere caro, però poi sempre rimane una spesa quasi insormontabile per una persona che sta certo. un reddito fisso con questi momenti così difficili. Ma e tu ascolti Radio 24 in studio? No, non è una radio da denti. Anche veramente io ascolto sempre jazz durante, io ho un impianto alta fedeltà proprio nella mia postazione di lavoro, e quindi i miei poveri pazienti sono sottoposti a stress emotivi. No, cerco sempre brani adatti, però la musica c'è sempre. Spesso ascolto la radio 24 perché mi tiene compagnia, Giacomo, anche mentre lavoro. Ti ringrazio moltissimo per la storia, la chiacchierata, e ti auguro una buona epifania tra 2 giorni. Grazie anche a voi, tanti auguri. Grazie ancora, ciao Giacomo. Adesso la borsa e poi Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. È una splendida giornata di sole, calda in montagna, quella in cui si trova Giacomo nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Voi siete qui. È una montagna non troppo alta, però nemmeno troppo bassa, perché non ci sono piante intorno. E il limite delle piante cos'è? 1700, 2000 metri più o meno, no? Il limite sui 2000. Quindi immagino sia sopra 2000 metri. È una montagna di roccia, il cielo dietro di lui è limpidissimo. Ha delle, come si chiamano? Le racchette per fare trekking appoggiate a un sasso. Lui ha su una maglietta nera e dei pantaloni quasi da passeggiata in città. Degli occhiali da sole, i capelli grigi, una posa comoda appoggiata alla roccia, e la cosa che mi piace però di questa foto è che non si sottrae, rimane lì, bello dritto davanti all'obiettivo. Epifania, sostantivo femminile, manifestazione della divinità in forma visibile. Nella tradizione cristiana, manifestazione della divinità di Gesù ai 3 magi in visita a Betlemme e il giorno commemorativo, 6 gennaio. Letterario, apparizione, manifestazione. Etimo, dal latino tardo, epifania, feste dell'apparizione. Data, seconda metà secolo XIII. Antonio ha scritto al 349-238-6666, dice: domenica per l'Epifania rivedrò mia zia Sofia, che vedo sempre solo il 6 di gennaio. Evidentemente non solo Giacomo e non solo io vedevamo le nostre zie, che poi non erano proprio zie, ma chi se ne frega. Paolo, mio zio Saverio tornava in Calabria ogni estate dalla Germania con un'auto nuova. Ero convinto fosse ricchissimo, anche se in realtà non lo era. la sera di Ferragosto arrivava sempre con una pizza enorme che si faceva fare apposta dal pizzaiolo del paese. Ancora oggi, il giorno di Ferragosto, mi mancano lui, le sue macchine tedesche e la pizza gigante. Ricordo, per un periodo frequentavo un paese della Sardegna dove tornavano diverse famiglie, in realtà sarde, che vivevano in Germania, e ricordo proprio queste auto tedesche enorme che arrivavano tutte luccicanti, e parlo di 15 anni fa probabilmente, nemmeno troppo tempo fa. E ricordo che io stesso, che non ero sardo e non erano miei parenti, avevo questa idea del chissà quanti soldi hanno fatto in Germania. Sara, la vigilia di Natale per me è mia zia Gina, che apre le porte di casa sua e ci fa sedere tutti intorno a un grosso tavolo rotondo che non so come usi durante l'anno, visto che quello è l'unico giorno in cui io la vedo. Anche questa è un'altra roba per cui quando frequenti, ci sono dei posti che frequenti solo in periodi particolari, ad esempio in periodi belli, no? Se passi da bambino la domenica a casa di amici e sono delle belle giornate, hai la sensazione che vivere in quel posto sia più bello. Dici, probabilmente se vivessi lì sarei più felice. È un po' come immaginare la casa della zia Gina di Sara, che è sempre addobbata per Natale, anche a marzo, anche ad aprile. E la sensazione è che magari lì si stia meglio, o magari no, invece. 349-238-6666. Giulia, questa vabbè, è più quotidiana. Il muso del mio cane che appare ogni mattina vicino al mio comodino mi ricorda che è ora di alzarmi. Il cane non deve entrare nella camera da letto, ragazzi. Non entra. Cioè, il cane sta in casa, se deve stare in casa perché non c'è il cortile, ma in camera da letto anche no. 349-238-6666. Visto che l'Epifania... sì, certo, è un giorno ed è una festa ben precisa, ma la Befana di fatto è una figura mitologica, e non avevo mai capito come dall'Epifania, dai tre magi, la rivelazione, bla bla bla, si fosse arrivate alla vecchia sulla scopa. Finalmente ho scoperto perché. Anticamente i romani politeisti festeggiavano la dea della caccia, Diana, che nelle notti antecedenti all'inizio della nuova semina passava con un gruppo di donne sopra i campi per renderli fertili e prosperosi alla nuova annata. La festa di Natale, infatti, era celebrata dagli antichi come la festa del Sol Invictus, cioè la festa del Sol Nascente, che dopo il periodo autunnale di oscurità, il 21 dicembre è infatti il giorno più breve dell'anno, tornava lentamente a splendere sui campi e con lui ricominciava il lavoro. Con l'arrivo del Medioevo, però, la figura della dea Diana muta radicalmente. Questo è il secolo dei riti e delle magie, dove mescolare il sacro e il profano viene condannato. Secoli in cui diviene mito la figura della donna strega, che veniva addirittura condannata al rogo e perseguitata. In questo periodo, l'Epifania si trasforma in un rito contro le maghe della magia oscura. Veniva acceso un falò in cui una simbolica strega vi era posta sulla cima, come passaggio da vecchio a nuovo ed eliminazione delle contaminazioni magiche. Un passaggio della cultura popolare che trasforma una bella dea in una brutta strega con poteri malvagi. Ma anche la tradizione cristiana ha contribuito alla nascita della figura della Befana che concepiamo oggi. La storia dice infatti che i re magi, durante il loro viaggio alla ricerca di Gesù Cristo, incontrarono una vecchia di nome Befana e chiesero a lei informazioni sulla strada da seguire. Provarono a convincerla a unirsi a loro per portare doni al Salvatore, ma ella si rifiutò a causa del suo animo malvagio. Giorni dopo, però, pentita della sua decisione, si incamminò con un sacco pieno di dolci, ma non sapendo come trovare la strada, iniziò a bussare ad ogni porta da lei incontrata e donò delizie a ogni bambino che vedeva, con la speranza che fra loro si celasse Gesù. Tradizione dice inoltre che la vecchia, per passare il tempo, era solita lavorare a maglia facendo calze. La figura di Diana, quella della strega e la versione cristiana della Befana hanno dato forma alla festa odierna, una vecchia con brutti vestiti che viaggia su una scopa e porta doni ai bambini in una calza, venendo considerata l'ultima festa natalizia. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. said, said she's mine, you know. She tells me all the time, you know. She said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things, you know. He buys the diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Prima chiedevo dove siete oggi, venerdì 4 di gennaio, tra le 4 e le 5 del pomeriggio. Per lo più in automobile, direi, mi pare di capire. Sempre solo in automobile. Anche se c'è qualcuno che è al lavoro, Fernando mi scrive, sono nel mio ufficio come ho fatto per tutte le feste natalizie. Emilia scrive invece, la prima domenica di ogni mese sotto casa mia c'è un mercato dell'antiquariato molto bello e davanti alla mia porta siede sempre, con la sua bancarella di paralumi, un signore anziano che ogni volta che mi vede mi sorride. Ogni volta che io lo vedo invece penso che è la prima domenica del mese. Voglio chiudere però con questo messaggio che non ha a che fare con le feste, ha a che fare con la domenica di festa e con un personaggio che non c'è più. Aldo scrive, la faccia serena e buona di Paolo Valenti che presentava al 90° minuto mi ricordava che la domenica era finita. Grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini, a Margherita Hina e grazie soprattutto a Giacomo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Enrico, 37 anni, e sono di Viareggio e la storia di lunedì sarà la mia e parla di pesca e le SL. Questa è la mia storia e io sono qui.